2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati a 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Questa è la nostra ultima puntata della versione estiva. Dalla prossima settimana torniamo nel nostro consueto appuntamento autunno, inverno, primavera, un'ora il venerdì sera e poi in replica anche la domenica all'ora di pranzo. Questa settimana si è tenuto a Berlino l'IFA, una delle più importanti fiere di tecnologia al mondo, ma come spesso accade è una versione direi autunnale, anche se non siamo ancora in autunno, forse a Berlino sì, del Consumer Electronics Show che si tiene all'inizio dell'anno a Las Vegas. Quindi nessuna grande novità, presentazione di nuovi prodotti, di smartwatch, quindi nuovi orologi, ma sostanzialmente non c'è qualche smartwatch che spicca per particolari novità, nuovi smartphone, in generale nuovi wearable devices, braccialetti, eccetera, eccetera. Si parla, perché sicuramente il 2016 sarà probabilmente l'anno in cui vedremo una quantità di OLED, nuovi televisori OLED in forze nei negozi e anche online, quindi si parla molto di OLED. Anche Panasonic ha presentato la nuova proposta di TV OLED, di questo parleremo presto, direi già dalla prossima settimana, con Gianfranco Giardina che assieme alla redazione di dday.it ha partecipato all'IFA a Berlino. Una cosa interessante è la risposta a Oculus, il visore per realtà virtuale americano che dovrebbe uscire sul mercato il prossimo anno, la risposta di Sony che ha presentato per la prima volta, l'ha fatto anche provare ad alcuni, Project Morpheus, che è questo visore per realtà virtuale. Però anche qui ne abbiamo parlato e straparlato di realtà virtuale. Alcune notizie in breve nelle nostre Digital News. Digital News. Nell'ambito della delega che il governo ha sulla riforma del lavoro, il famoso Jobs Act, è stato approvato un nuovo pacchetto di decreti attuativi che contengono anche nuove norme sui controlli a distanza dei dispositivi che un lavoratore ha in dotazione, come ad esempio il telefono aziendale, un computer o un tablet. Deve essere fatta una informazione preventiva al lavoratore ed è necessario rispettare le norme sulla privacy, il che vuol dire ad esempio che per usare i dati GPS ci deve essere un accordo sindacale e ci deve essere proporzione fra l'analisi dei dati e lo scopo connesso all'organizzazione del lavoro. Naturalmente questa è una materia molto delicata, molto complessa, e quindi, come giustamente fanno osservare gli esperti, bisognerà leggere la norma per bene, ma soprattutto aspettare forse le prime sentenze che arriveranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni per comprendere anche quale sarà l'orientamento della magistratura su questo tema. Ne parleremo presto a 2024 perché sicuramente il tema è molto importante. Digital News. A proposito del piano per la diffusione della banda ultralarga, dopo la delibera del CIPE di agosto sono attesi altri provvedimenti normativi, forse a breve, vedremo, e anche i bandi per assegnare le prime risorse per posare fibra ottica. Ci vorranno comunque mesi, quindi non si tratta di una vicenda che si conclude a breve, ma il grosso della partita, ci fanno notare i nostri contatti, i nostri esperti, si gioca su un riassetto del mercato basato su un player che possa fare da operatore neutrale o comunque il più neutrale possibile rispetto ai player delle telecomunicazioni, per cercare anche di uscire da questa impasse che fanno sempre notare gli operatori alternativi a Telecom Italia, cioè la forza ancora che oggi ha Telecom Italia, che in alcune occasioni è stata anche abusata, così ci ha detto l'autorità garante per il mercato. Infatti ha dato una multa di oltre 100 milioni di euro a Telecom Italia per questo motivo. Allora, sfumata l'ipotesi MetroWeb, sembra che Enel possa avere questo ruolo di operatore sostanzialmente neutrale. L'amministratore delegato Francesco Staracci ha detto che entro settembre verrà completata l'analisi di fattibilità di questo piano e vedremo che cosa succederà. Certo, non si tratta di un progetto che cablerà tutta l'Italia, perché stiamo parlando di una ventina di città, ma saremo più chiari quando questo studio di fattibilità sarà completato. Digital News. Una notizia che riguarda BlackBerry, che ogni tanto si rifà viva. Allora, ha annunciato l'acquisizione, questa è una bella acquisizione, di Good Technology per 425 milioni di dollari. E uno si domanderà, ma che cos'è Good Technology? È una società che fornisce sistemi per utilizzare la posta aziendale su più dispositivi e su diversi sistemi operativi in modo sicuro. BlackBerry consolida in questo modo la propria presenza sul mercato, soprattutto il mercato aziendale e delle comunicazioni in mobilità. Se è vero, come diciamo spesso a 2024, che la rivoluzione digitale riguarda tutti e nessuno può sentirsi esonerato, sia che si parli del mondo business delle aziende, sia che parliamo di noi consumatori, beh, è altrettanto vero che molte piccole e medie aziende, così come piccoli negozi, incontrano maggiore difficoltà per vari motivi: mancanza di tempo, mancanza di competenze, risorse finanziarie non molto elevate. Allora, una soluzione che possa automatizzare o comunque aiutare tutto ciò è molto utile. Parliamo di mobile marketing o comunque marketing digitale. Saluto Stefano Colonna, che è fondatore nonché amministratore delegato di Movilo Shop. Bentornato 2024. Grazie. Noi ci siamo sentiti un po' di anni fa, quindi questo è il secondo capitolo dell'intervista. Noi parliamo spesso di e-commerce, questo è un tema di cui ci occupiamo molto. Tu hai realizzato un'applicazione, un servizio per i più tecnici, direi un CRM, un sistema per curare la clientela per piccoli negozi, che non c'entra niente con l'e-commerce, è proprio pensato per i negozi fisici, cioè per i negozi tradizionali, giusto? Esatto, l'idea era proprio quella di portare il digitale, e quindi un sistema che fosse facilissimo da capire, facile da usare e che portasse dei risultati anche nel breve periodo, su questo target, quindi sulla tipologia di negozianti che per definizione hanno poco tempo e in questi anni hanno avuto ancora poche soddisfazioni da quello che è il mondo digitale. Sì, quindi il fruttivendolo, il macellaio, il barista, proprio piccoli negozi. Ristoranti, saloni di bellezza, lavanderie, assolutamente. Non grandi negozi, quindi non il grosso centro commerciale, non è quello il target. No, perché più sono grossi e più magari hanno già dei processi, quindi hanno già magari, come dicevi tu, il CRM, piuttosto che fanno già promozioni. Il difficile o la scommessa era portare tutto questo che, diciamo, è il marketing, se vogliamo dirla con una parola, nelle mani di un negozio molto piccolo, che quindi può come approccio fare esattamente le stesse cose di uno più grande, però non ha il budget, non ha il tempo, non ha tante volte anche la conoscenza dei mezzi, la competenza, o i fornitori. Allora l'idea era dar loro uno strumento fatto finito che li aiutasse a gestire i clienti, fare la tessera fedeltà, fare le promozioni, pacchettizzato e molto facile da usare. Io sono un negoziante, un piccolo negoziante, magari di provincia, e sono un po' sospettoso rispetto a tutte queste cose tecnologiche, al mobile, perché il mobile, lo smartphone ha un ruolo importante anche in tutto ciò, e quindi la domanda potrebbe essere: ma che cosa me ne faccio di una cosa del genere? Io ho i miei clienti, sono affezionati, vengono sempre da me, li conosco, perché dovrei avere un sistema che gestisco magari dal computer o dallo smartphone che mi serve per attivare delle relazioni con i miei clienti, che io già conosco? La risposta, abbiamo impiegato anni per capirla, ma è chiara e univoca, perché è un negozio, per aumentare le proprie vendite. E questa in effetti è una cosa che capiamo tutti. Adesso ci fermiamo per un minuto, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, a tra poco. 2024. Ci siamo lasciati con una domanda per Stefano Colonna: che cosa c'entra tutto il mondo digitale? Perché devo usare un computer o magari uno smartphone per aumentare la relazione con i miei clienti, che sono i miei clienti, quindi io conosco già, parlando di un negozio, magari di un piccolo negozio? Io ho già dei clienti, però magari non sono capace a contattarli quando non sono in negozio da me, vendere quando il mio negozio è chiuso, aumentare il numero di volte che loro vengono in negozio. Quindi ho bisogno di quelle che sono, diciamo, le normali attività di marketing che vengono fatte. E ho bisogno di, diciamo, tre grossi pilastri. Il primo è far aumentare la mia lista di clienti. Quindi se io non ho una lista clienti, posso anche iniziare da zero e ogni giorno via Facebook, via volantino in negozio, chiedendo magari ai miei clienti quando sono alla cassa che pagano di registrarsi, faccio crescere la mia lista, che è la ricchezza del mio negozio. Quindi ogni giorno questa lista aumenta e è proprietà esclusiva mia. Quindi lì per lista intendi proprio nome, cognome, che cosa fai nella vita, quanti anni hai, bla bla bla. Benissimo, perché oltre a sapere come contattarti, capisco anche chi sei e quali sono i tuoi interessi. La seconda cosa è fare la tessera fedeltà, quindi aumentare il numero di volte che il mio cliente viene in negozio, il numero di volte che acquista. E la terza cosa è la parte promozionale, quindi essere in grado in ogni momento di mandare la promozione giusta al momento giusto, al cliente giusto, magari direttamente sul suo telefonino oppure anche sui social network come Facebook. Tutto questo fatto in una maniera chiaramente molto facile, che cosa mi porta? Mi deve portare dei risultati, e dei risultati per me piccolo negoziante sono vendite extra, quindi vendite in più. E difatti mediamente i nostri clienti fanno diverse centinaia di euro al mese di vendite extra, fino ai migliori che ne fanno diverse migliaia. Sì, questo è un concetto interessante. Come sempre, 2024 l'obiettivo è far comprendere come le logiche digitali, quindi magari basate su web, basate su mobile, sullo smartphone, possono cambiare possibilmente in meglio la propria attività. Poi come uno lo fa, questo dipende poi da ogni negozio. Certo, tu dirai fatelo con Movilo o con Via Mobile, perché in Italia si chiama così, poi magari spieghiamo le differenze. Però l'obiettivo è dire, signori, ci sono delle possibilità, sfruttatele, usatele, al di là dei vecchi volantini o dei manifesti. La dimensione quindi territoriale e locale è molto importante per voi. Sì, assolutamente sì, perché se noi pensiamo a un negoziante che ha un negozio su una via di qualsiasi città italiana, i suoi clienti sono intorno al suo negozio. Sì. Quindi il concetto di localizzazione, se vogliamo, è squisitamente tecnologico, non è legato alla tecnologia che mi permette di identificare dove sono i miei clienti. Il vero valore che noi vediamo è la capacità di poterli contattare, quindi di poterli invogliare ad acquistare di più, a tornare, a dirmi se sono soddisfatti o meno e a fare un'azione incrementale. Quindi se io compro due volte in un mese, se tu mi fai comprare una volta in più, hai aumentato le tue vendite. Sì. Quindi questo è diciamo, il nostro focus. Senti, io negoziante di che cosa ho bisogno? Di un computer? Di un computer oppure di un semplice telefonino. Quindi puoi usare un'interfaccia che è un sito internet che si raggiunge tramite via mobile, quindi viamobile.it, oppure tramite una semplice app per telefonino che ti serve a gestire i clienti, fare promozioni, convalidare i coupon e così via. E io cliente? Tu cliente in realtà devi semplicemente dare la tua fiducia al singolo negoziante. Cioè non devo scaricare un'app? No, nulla. È un rapporto di fiducia tra un cliente e un negoziante che può essere dato e tolto e modificato in qualsiasi momento, e poi riceverò le offerte dal mio ristorante preferito, dal mio salone di bellezza preferito, via email, via sms, via Facebook, a seconda di come io ho deciso di riceverle. Uno a questo punto potrebbe dire, vabbè, ma ne abbiamo già sentito parlare di siti che mi offrono i coupon, le offerte, bla bla bla. Che cosa c'ha di diverso? Noi spingiamo il rapporto diretto tra cliente e negoziante, quindi noi non siamo un sito che aggrega tanti coupon o tanti negozianti per mettere l'offerta migliore in più bella mostra. Sì. Noi diamo uno strumento al singolo negoziante per aumentare la sua clientela e per lavorare su quella clientela, che è di proprietà esclusiva sua, nemmeno nostra. Per cui non, se lui fa un'offerta, questa è una domanda che ci viene fatta spesso, se io faccio uno sconto del 10% e il mio vicino fa l'offerta col 20% di sconto, poi vanno da lui. No, tu hai i tuoi clienti e comunichi con i tuoi clienti in maniera esclusiva. Ah ok, cioè il rapporto è tra sempre uno a me uno. E lui, come che mi arrivasse a casa una lettera con scritto guarda che oggi il tuo parrucchiere di fiducia ti offre lo sconto del 30%. Perfetto, esattamente questo. Ho citato una differenza di nome sostanzialmente tra Italia e il resto del mondo, che poi il resto del mondo sono Stati Uniti, perché voi avete una società in Italia e una negli Stati Uniti. Giusto. Perché? Abbiamo creato la società negli Stati Uniti fondamentalmente per due motivi. Uno, perché abbiamo più di 10.000 clienti nel mondo in questo momento e la maggior parte di questi sono all'estero. Quindi quando incominci ad avere clienti in varie nazioni è più facile avere una società americana che li gestisce rispetto a una società italiana. L'altro motivo, e direi il principale, è perché abbiamo ricevuto due investimenti da un importante imprenditore americano. Prima un investimento che viene definito seed, quindi circa $100,000, e poi recentemente invece un investimento più grosso da $1,000,000 da questo investitore americano di successo. Diciamo che si chiama Will Grayling, che sì. Uno potrebbe dire, ma chi è sto Wing, cioè non è famoso. In realtà è un imprenditore che ha già fatto diverse società di successo negli Stati Uniti, e l'ultima che ha fatto si chiamava LoopPay ed è stata appena venduta a Samsung per costruire quella che adesso si chiama Samsung Pay. Infatti io recentemente ho parlato di Samsung Pay, dell'avvio di questa iniziativa di Samsung. Tu mi hai scritto, detto, guarda che il fondatore di quello che poi è diventato Samsung Pay è quello che ha investito nella nostra società. Volevo farti una domanda sui pagamenti. Tu come pensi si evolverà il sistema di pagamenti digitali via mobile? Credi che in pochi anni vedremo un'evoluzione molto forte di tutta questa serie di sistemi che stiamo commentando, da Samsung Pay, da Apple Pay, da tutti i sistemi basati sul chip NFC? E insomma ce ne sono anche di tante banche italiane, eccetera eccetera. Come ti immagini i prossimi anni? Allora, sicuramente sarà un processo che porterà via molti anni. Difatti il grandissimo vantaggio di Samsung Pay è proprio quello che funziona sui terminali, sui POS già esistenti, e non ha bisogno di cambiarli. Quindi se immaginiamo quelli di vecchia generazione, esatto, se immaginiamo il fatto di dover cambiare tutti i terminali di ogni singolo negozio nel mondo, è ovviamente un processo che non accade in un weekend. Sì. Il sistema di pagamenti digitali mobile impiegherà probabilmente anni a diventare usato a livello mass market, però sicuramente è la strada. Quindi il concetto di pagamento in contanti in negozio, che adesso è quello che va per la maggiore, soprattutto in alcune nazioni come l'Italia ancora, ogni anno, ogni giorno ne perde un pezzetto. Stiamo parlando di quello che era il mondo televisione col mondo internet negli anni 90, quindi uno ne perde un pezzetto ma è enorme, l'altro ne guadagna un pezzetto ma è molto piccolo. Non succede in un anno, magari neanche in due, però la direzione è quella. E tu pensi che ci saranno dei player come appunto Samsung Pay, Apple Pay, in un mondo che normalmente non è il mondo del pagamento, o invece i player nei prossimi anni saranno, con le dovute trasformazioni, le banche o i sistemi di carta di credito? Diciamo che il mondo, se vogliamo, delle startup molto ben finanziate, e in questo caso anche Samsung Pay, anche Apple Pay, dobbiamo considerarle come delle startup perché sono nuove anche loro nel mondo del pagamento, hanno una velocità per imporsi sul mercato, capire cosa funziona e cosa non funziona, che non è tipica di una banca, piccola o grossa che sia, è molto più veloce. Qui si andrà a capire cosa sono i processi, per cui come un utente è in grado di usare un sistema, come un negoziante è in grado di incassare. Se io per imparare un processo impiego una settimana, sono molto veloce. Se impiego un anno, ho dei problemi. Quindi è molto probabile che ci saranno delle innovazioni fatte appunto da queste grosse società che porteranno via grosse fette di mercato a quello che è il mondo del pagamento tradizionale, quindi le carte di credito e le banche. E tutto ciò tu vedi sta avvenendo molto velocemente, ok, negli Stati Uniti direi di sì. Al di là degli Stati Uniti, Europa o il resto del mondo, quali sono alcuni paesi che potresti dire, insomma, sono molto interessanti? Allora, in tutto il mondo, incluso anche l'Italia, ci sono un altissimo numero di startup, di nuovi progetti che stanno cercando di, probabilmente non di indovinare la chiave, ma di sperimentare, cioè di capire come il mercato riceve o respinge una singola innovazione. Sì. E personalmente non credo che la versione finale che vincerà sia qualcosa che si disegna a tavolino, ma sarà provandone tante, si vede che qualcosa è accettato dal mercato, e allora a quel punto lì quello evolve e magari gli altri si accodano dietro. Sicuramente è un processo, quindi se in questo momento nel mondo abbiamo 10 startup, dico 10 un numero a caso, sul mondo di come portare il digital sui piccoli e di come cambiare i pagamenti, il prossimo anno saranno 15 e poi saranno 20, quindi sicuramente è una cosa che tenderà a crescere fino a che ci saranno poi dei player che avranno delle grosse fette di mercato. Bene, io ringrazio Stefano Colonna per essere stato con noi, buon lavoro e in bocca al lupo, questo lo dico un po' a tutti, ma la vostra società è già una società che non è, sta, è già uscita o sta uscendo dalla fase di startup? Grazie, innanzitutto noi ci consideriamo sempre in realtà in modalità startup, perché noi siamo sempre beta. Esatto, noi siamo fortunatamente riusciamo a pagarci con i soldi che produciamo e quindi non rischiamo di finire senza soldi sul breve periodo. Però continuiamo a investire e a migliorare o far evolvere il prodotto ogni giorno, proprio perché se stai fermo 6 mesi sei morto. Hai perso completamente il contatto col mercato, per cui l'essere continuamente in startup è una modalità molto funzionale. Bene, a presto, buon lavoro. Grazie a tutti, grazie. Per introdurre il prossimo argomento farò una citazione che ho già fatto in passato in altre occasioni, è stata pronunciata dal sindaco, una frase pronunciata dal sindaco di Amsterdam qualche anno fa. Ha detto: nella nostra città ci sono 3 hub, quindi 3 importanti centri di scambio. Il porto, che è un hub che tutti conosciamo l'importanza di un porto commerciale e sappiamo benissimo che Amsterdam e l'Olanda in generale è molto forte in termini di capacità di scambio di merci via mare e via nave. E quante volte ci siamo detti che il sud dell'Italia potrebbe essere un luogo, geograficamente parlando, molto importante per i porti, per intercettare le merci che arrivano da Oriente per poi portarle in Europa, ma in questo non siamo stati molto capaci. E le merci fanno una strada un po' più lunga e arrivano, pensate, fino all'Olanda o alla Germania. Poi un altro hub importante della città di Amsterdam è l'aeroporto. E quanti sono anche gli italiani che volano in molte parti del mondo che passano e partono per i viaggi intercontinentali dall'aeroporto di Amsterdam, da Schiphol, come dicono gli olandesi, io l'ho detto naturalmente male. Il terzo hub è l'Internet Exchange. E uno potrebbe dire, ma che strano, Allora, Amsterdam è un luogo di scambio del traffico internet tra i più importanti in Europa. L'Internet Exchange è un luogo dove gli operatori di telecomunicazioni scambiano il traffico da una rete all'altra. Il traffico internet ha un valore economico e strategico. E quanto è crescente, tra l'altro, il traffico che dall'Europa viene scambiato con l'Asia o anche con l'Africa? E allora perché non intercettare i cavi sottomarini e quindi poi raccogliere il traffico, ad esempio, in Sicilia? Allora, questa estate è stato annunciato un progetto che diventerà operativo tra qualche mese per raccogliere traffico internet proveniente appunto da Asia e Africa, facendo convergere i cavi sottomarini che già passano dalla Sicilia e per fare della Sicilia un hub anche per la rete internet. Ne abbiamo parlato con Joy Marino, che è il presidente del MIX di Milano, che è il più importante internet exchange italiano, quindi il più importante luogo dove in Italia viene scambiato il traffico internet tra tutti gli operatori. Questo avviene a Milano, ma l'obiettivo è fare diventare anche la Sicilia e Palermo un centro importante anche per la rete internet. La Sicilia è un punto nodale al centro del Mediterraneo. Noi italiani non ce ne rendiamo conto, ma la maggior parte delle fibre ottiche che passano sott'acqua, e sto parlando non soltanto di quelle che riguarda l'Italia o che riguarda il Mediterraneo, ma tutto quello che unisce l'est con l'ovest, dall'estremo oriente e poi tramite poi Gibilterra fino agli Stati Uniti, ha comunque un punto di atterraggio in Sicilia. Il problema è che a oggi questo punto di atterraggio in Sicilia è stato utilizzato semplicemente per prendere fiato, no? Le fibre ottiche hanno comunque bisogno di rigenerare i segnali e quindi i dati arrivano in Sicilia e dopodiché si riemergono nuovamente e vanno da qualunque altra parte. Devo dire che tutte le volte che sono stato in Sicilia, anche per il diletto, ho sempre trovato un po' di rabbia per questa cosa qua, perché è una grossissima occasione che fino a oggi è stata persa per noi, per gli italiani. Poi spieghiamo anche i motivi di business che ci sono dietro, però diciamo che quando parliamo di fibre ottiche, dell'importanza della Sicilia come nodo del traffico internet, parliamo di un traffico internet che sta crescendo perché di lì passano i grandi cavi, le grandi dorsali in fibra ottica che vanno verso l'Oriente, e il traffico dall'Occidente verso l'Oriente sta aumentando, soprattutto negli ultimi anni è aumentato molto. Sì, il traffico, l'Oriente sta sia il medio che il remoto, sta crescendo molto. E così come ci sono grossissime aspettative per quanto riguarda l'Africa, che dalle primavere varie sta scoprendo l'importanza di internet, non soltanto in termini politici, civili, ma di business. Quindi lì ci sono grossi volumi di traffico in aumento. E il problema di questi paesi è che i contenuti, sia quelli internazionali che quelli locali, hanno un po' di problemi a essere memorizzati localmente, perché sono ancora aree ad alta turbolenza o gestite da regimi non sempre facili, stabili o neutri dal punto di vista dei contenuti, della politica, quant'altro si voglia mettere. Quindi qualunque posto nei pressi del vicino Oriente, nei pressi dei paesi dell'Africa, è privilegiato come punto dove mettere i server, mettere i contenuti che vengono poi fruiti in tutto l'arco dell'Africa e dell'Oriente. Ovviamente la Sicilia, ma è dai tempi dei Romani che è lì a fare questa funzione. La nostra iniziativa è quella di rendere possibile le condizioni per cui ci sia una alta densità di questi contenuti, di questi server, di questi operatori di contenuti, operatori di telecomunicazione, in un punto che sia molto appetibile. Le condizioni perché siano appetibili devono essere che ci arrivino tutti i cavi in fibra ottica, e questo la Sicilia è, diciamo, l'eccellenza, che ci sia spazio. L'esempio principe che abbiamo di riferimento, che su cui in qualche modo abbiamo mirato la nostra iniziativa, è a Marsiglia, dove ci sono qualcosa come 6.000 metri quadri pieni di calcolatori, con consumi elettrici che sono dell'ordine di alcuni megawatt, cioè stiamo parlando dei consumi di una cittadina. Se tu hai citato la Marsiglia, e Marsiglia è sicuramente un esempio di come fino ad oggi si è radunato il traffico internet proveniente dal Medio Oriente e dal Lontano Oriente in Francia e non in Italia. Ecco, Marsiglia è un buon punto di riferimento, perché anche per l'ultima componente che stavo per aggiungere, necessaria affinché questo sistema di hub nasca e si sviluppi, e che ci sia una apertura totale a tutti i soggetti. Perché se non c'è un mercato vero, un mercato sano, un ecosistema sostenibile, quindi dove tutti gli operatori possono interagire tra loro, possono offrire i loro servizi, possono trasportare il traffico sia sottomarino ma anche e soprattutto via terrestre verso l'Europa, non c'è interesse da parte di altri soggetti a venire a stabilirsi lì. Nessuno va a posizionarsi a Palermo se non c'è la sicurezza di avere una presenza di tanti operatori. E voi avete fatto la stessa cosa in Sicilia? Noi abbiamo fatto una cosa che, incrociamo le dita, è veramente speciale. Cioè abbiamo creato un qualche cosa che ha la struttura di un consorzio, dove ci sono dentro tanti operatori, tanti soggetti diversi, sia siciliani, sia operatori di telecomunicazione internazionale o i principali operatori italiani, gestori di data center, cioè veramente quanto di meglio si può trovare in Italia. In più, che è un ulteriore importante valore aggiunto, un partner come Italtel, che ha una grande sede a Carini, dove andremo ad aprire tra pochi mesi questo hub, e che vede in questo un'ottima opportunità per riqualificare, valorizzare le aree che sono importanti, che sono disponibili in quell'area. Senti, il cittadino italiano che naviga in internet avrà dei benefici? Cioè a me che navigo in internet a casa, perché mi interessa o forse non mi deve interessare, non so. Beh, allora, rientriamo nelle cose che non si vedono e non si devono vedere. E quindi c'è un vantaggio comunque diretto per quanto riguarda Sud Italia, perché aumentando il traffico che viene veicolato dalla Sicilia e dal Sud Italia, migliora comunque sia la qualità dell'internet, sia la competitività delle infrastrutture, e quindi prezzi più bassi, velocità più alte e così via. Ma questo riguarda però gli operatori, diciamo? Ma riguarda anche chi poi utilizza internet in Sicilia oppure diciamo gli enti locali, la pubblica amministrazione. Ma l'elemento più importante è il meccanismo di generazione di ricchezza, il fatto che ci sia un'alta concentrazione di soggetti internazionali in una regione non particolarmente brillante dal punto di vista tecnologico come la Sicilia è un grosso elemento di crescita in termini di indotto, in termini di know-how, in termini di visibilità internazionale nel settore delle telecomunicazioni. E così concludiamo questa puntata di 2024. Vi ricordo che questa è l'ultima puntata della nostra versione estiva. Quindi torneremo a partire da venerdì prossimo, quindi l'11 settembre, dalle 22 alle 23 con la prima puntata della nuova stagione di 2024. Poi siamo in replica anche domenica all'ora di pranzo e come sempre in podcast. Grazie a tutti i nostri ascoltatori per aver ascoltato questa puntata, per aver scaricato questa versione MP3, quindi in podcast del nostro programma. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 3-1 seconds and we're going for auto sequence start.